24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Io non lo so. Alino, sai cosa? Adesso scrivo una lettera al sole per lamentarmi della tua trasmissione. Scrivo Squinzi. Va bene, va bene. No, sei un cioccapiatti. Poi glielo scrivo Squinzi. Eccolo qui dal vostro cioccapiatti di fiducia. Ormai mi chiamano tutti così. Dopo l'insulto di Forchielli. No, non era un insulto, è Alberto Forchielli. Sono un cioccapiatti. Poi vuole scrivere anche a Squinzi. Vabbè, faccia pure. Io finché ci sarò, sarò qui. Anche il 25 aprile. Buongiorno, cari ascoltatori. Sono le 6:32 minuti. Siamo in diretta. Saluto Miriam Lucchetti in redazione. Il nostro alpino Peter. Oggi l'alpino festeggerà. Insomma, 25 aprile, che deve fare? La festa della liberazione, no? Sì, boh, non si sa. Comunque, il nostro alpino Peter Bescapè in regia e il nostro Parlamento che si apre, anche se appunto è il 25 aprile, festa, ma il bar aperto. E allora, evviva, paga sempre Nicol Minetti tanto, Forza, forza, gente, accorrete al Parlamento. Abbiamo barman generoso. Forza, forza, allora. Ci sono da dire tante cose. Beh, c'è Lettina, Letta, Enrico Letta. Subito, ecco, qualche giornale ingeneroso. Il nipote di Gianni Letta. Il Fatto Quotidiano titola: hanno messo il nipote di Gianni Letta. L'inciucione, ma anche Libero. Saluto il vice direttore Massimo Di Manzoni. Massimo, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno. Come avete titolato un lettino per il PD, il lettino, anche voi un po', il nipotino di Gianni Letta o lettino? Sì, per quello, no? Il lettino. No, il PD ha bisogno di un lettino, sono talmente messi male, da psicanalista, il lettino da psicanalista. Saluto Vincino, buongiorno Vincino, va bene Enrico Letta? Tutte le previsioni sbagliate, nessuno. Io preferivo Renzi naturalmente, come si sa. Ci sei andato vicino, mamma mia, Vincino è andato vicinissimo. Vicinissimo. Che tutti i PD sarebbero stati contenti questa volta, Mannaggia, invece. Dobbiamo aspettare ancora poco. Io sognavo Amato, perché professionalmente parlando, qui ne avremmo avuto per giorni e giorni, no? De Manzoni, se fosse stato Amato, avremmo avuto, no, da raccontarne. Anche il mio vignettista faceva il tifo anche Vincino faceva il tifo, c'era tutte le vignette, aveva già fatto tutte le prove, Vincino, avevi già fatto tutte le prove, di la verità, quante vignette ti sono rimaste. Infatti il più difficile è Letta, proprio perché quasi idea, in realtà ha qualche capello in meno ed è un po' più scuro e qualche ruga in meno, per il resto è identico, guarda, a chi? Ad Amato? Allo zio. No, allo zio, c'hanno un'impegna di famiglia che è pazzesca. Infatti questa cosa adesso tutti il nipote. Però hai visto la macchina con il Quirinale? È arrivato con la macchina, con la macchina sua. Della Rizzoli. Della Rizzoli, sì, allora, perché Enrico Letta è il marito di Gianna Fregonara, che è la capocronista del Corriere della Sera a Roma, e quindi gli ha prestato la macchina dell'RCS, immagino, no? Non lo so. No, tutti quelli del Corriere avevano la macchina Fiat. Vabbè. Io faccio. No, in omaggio, adesso non più, non credo. L'anno scorso era così, poi non lo so, però noi collaboratori mai proprio, solo biglietti dell'autobus e del tram. Cioè, è vero, perché Vincino collabora anche con il Corriere, ma zero, De Manzoni, a Libero cosa avete? Avete parco macchine? Niente parco macchina. La Ferrari hanno, gli Angelucci hanno la Ferrari. La Ferrari. Ma poi si è visto il Corriere che ha avuto qualche problemuccio ultimamente per tutte queste liberalità, no? Qualche conto, sì, ma chi non li ha. Però oggi noi abbiamo l'audio Vincino, ne avevamo già parlato l'altra volta, sì. Di Amato che parla ai giovani e dice: la questione avrete delle pensioni miserabili e dormirete in auto. una cosa che non si poteva credere, e invece c'è l'audio, l'abbiamo trovato l'audio, ce l'hanno segnalato, era, allora, lo vogliamo ascoltare subito per capire cosa abbiamo rischiato, cosa abbiamo rischiato. Allora, Amato parla ai giovani della Luis, ha un master, e racconta di quando andranno in pensione. Si renderanno conto che hanno campato con uno slalom continuo a cui noi non eravamo abituati per tutta la vita lavorativa, e poi, sempre che non abbiano il problema dell'esodo e della mobilità intermedia tra la fine del lavoro e la pensione, si ritroveranno con una pensione con cui proprio non potranno vivere, una pensione miserabile. Che li porterà dall'appartamento dentro l'automobile, se ne avranno una, per passarci la notte, come sta capitando, e se saranno tanti, ecco, non sarà una rivolta in fondo pacifica come quella del Movimento 5 Stelle, insomma, può diventare qualcosa di molto più lacerante rispetto alla... Ci dobbiamo pensare. Ci dobbiamo, ma io non ci voglio credere, Vincino, non ci voglio... Se ne avranno una di macchina, riusciranno a dormire lì, ma io non ci posso credere. È sputorato, in un modo, una roba incredibile. L'ha fatta lui tutta questa cosa per tutti questi anni, no? Ha costruito tutto questo lui, no? E adesso dice, ci dobbiamo pensare a questi giovani che arriveranno a questa, finiranno in auto. È socialista lui, lui ci vuole bene, no? È come dire, è così, è, ma ha detto così, finiranno in un'auto, se ne avranno una, manco l'auto avranno. De Manzoni, io lo cercavo da chissà quanto questo audio, non ci potevo credere, è successo 20 giorni fa. Te lo giro se vuoi, Massimo, poi fatene quello che volete. Perché bisogna crederci, lui ha una pensione da 31.000 euro lordi. Sì, ieri ne parlavamo qui anche con Mario Giordano, che ci raccontava anche della casa di Amato. Della moglie. Della moglie. E non so, così papà ha detto: pensiamoci a questi giovani, se no, altro che Movimento 5 Stelle, Rivolta Pacifica, no? Quando si troveranno una pensione miserabile. E lui invece no. Però, Massimo, è vero che c'è stato il veto di chi su Amato? Il veto del Partito Democratico su Amato, più che un veto, è un'implorazione al capo dello Stato. Con Amato non ce la facciamo, con Letta forse, può darsi, chissà, ma con Amato non di sicuro, perché siamo troppo spaccati, abbiamo correnti che vanno di qua e di là, e Amato lo impalliniamo. Quindi, tu ci metti lì Amato, noi l'unica era Renzi, guarda. L'unica era Renzi. Era Renzi. Niente, Vincino. Vabbè, anche su Renzi, bello. Ma su Renzi c'è stato il veto di Berlusconi, Vincino. Ma questo qua non ne sono tanto convinto. Non è vero. Beh, non è vero, insomma, pare così. Alcuni dicono di no. E cioè chi l'ha impallinato anche quello, il PD? Lì sembra Napolitano, non era convinto, e siccome Napolitano conta qualcosuccio ha detto di no, però io vorrei sapere, non era convinto, forse lo vede non ancora pronto, invece Vincino, Enrico Letta invece no, Lettino. Enrico Letta è pronto da quando è nato, come dire, non è stato educato così, è nato pronto, famiglia, l'hanno costruito così, come la famosa battuta, non so se era di Jena Plinsky, io sono nato pronto. Bisognava trovarla quella del film, meglio un morto in casa che un pisano alla porta. È vero che è pisano, pensa a Livorno come saranno contenti. No, Livorno, ma in tutta Italia stiamo così aspettando. Vabbè, come dire, poi magari sarà bravo, che gli posso dire. Sempre che riuscirà a formare il governo, perché attenzione, guardate. C'ha la Bindi che non vuole nessuno che si conosca, no? Dobbiamo metterci le impronte digitali, e lei se pulisce tutto, pulisce la porta del governo, pulisce tutto. No, però la Bindi, butta le pistole, la Bindi è terribile. La Bindi, a parte che ha detto ti do un pugno a un manifestante, quindi stai attento Vincino perché è aggressiva. E poi ma lo vedi come si muove saltellando la Bindi, come un pugile, proprio un porter, non cammina normalmente, lei cammina pop pop pop pop pop. è già pronta a scattare. Comunque sì. La Bindi ha detto: ho mandato un messaggio a Enrico Letta, auguri, però è un errore. Ecco, già subito partiamo così. E a proposito di questo, la questione è, e vorrei a Massimo De Manzoni chiedere questo, perché oggi Libero ne parla. Beh, Berlusconi è in Texas, è andato a trovare George Bush, l'ultimo Bush. L'ubriacone di famiglia. No, eccolo sì. Là, ecco. Sì, sì, ma vabbè. Non c'è solo Bush, ci sono tutti. Vabbè, anche Obama. Sì, alla biblioteca Bush, però va. Sì, vabbè, è andato buono. Non è che c'ero lì a camminetto ubriacasso. Cioè, no, vabbè, ma lascia perdere. Ma Vincino è così, sì, col cappellone del cowboy. Guarda, lui, spara. Bush già da vivo si è fatto il memoriale. E Berlusconi perché non ce l'ha? Vabbè, magari gli ruba l'idea. Comunque ad Arcore ce l'ha. E no, la domanda seria invece è questa: partirà questo governo? Perché si sono telefonati Enrico Letta e pare che Berlusconi, secondo il PD, voglia alzare un po' l'asticella, vuole i ministri politici, vuole mettere Schifani agli interni, invece loro vogliono confermare la cancellieri, insomma vuole far togliere l'IMU al primo consiglio dei ministri. Oh, ma che è, Berlusconi, De Manzoni sta un po' esagerando? Berlusconi alza i paletti, il PD li abbassa. Cioè, la cancelliera intanto non mi pare che neanche il PD la voglia, perché Letta ha detto: non voglio nessuno che sia stato in precedenti governi, per cui ha già cominciato. E lì è il solito problema, che il PDL vuole un governo molto politico e vuole un governo che faccia certe cose, tra cui alcune cose a cui tiene molto, tipo l'IMU, ci ha fatto tutta la campagna elettorale e quindi sicuramente vuole quello. E il PD, che ha problemi interni tipo la Bindi, la Bindi è solo uno dei tanti, non vuole metterci l'impronta digitale, vuole meno profilo più politico più basso possibile. Un po' più grigio, un governo più grigio. Poi ovviamente hanno due programmi elettorali che non è che siano proprio coincidenti, per cui ognuno tira l'acqua al suo mulino. Cioè, riassumendo, uno vuole il PD. Non è che lo veda proprio benissimo questo governo. Infatti, chissà se parte, perché qua, Vincino, stiamo parlando di Enrico Letta, fa le oggi le consultazioni, ma magari non si va da nessuna parte e salta tutto. Sarebbe incredibile. No? Immaginati, Vincino, cosa dice Napolitano se salta tutto, dopo il discorso che ha fatto in Parlamento dove li ha presi a schiaffoni. Cosa può dire? È preoccupatissimo soprattutto del fatto che Berlusconi è in America, che fa? Lui lo chiama e quello fa: pronto, come? Non c'è campo, non sento voi, e si mette a ridere. No, Berlusconi è in America proprio per lasciare i suoi a fare le peggio cose, mamma mia. Oggi Berlusconi tu lo dipingi in Prima del Foglio, no? Cos'è? Poi a 87 anni con comodo andrò al Quirinale. Eccolo un altro che pensa che Berlusconi voglia quello, il Quirinale. Tra 10 anni là, tanto sì, con comodo. Con quelli con tutte le iniezioni di cose che si fanno, quelli arrivano a 97 anni, 230. Però la questione è questa. Vabbè, intanto sentiamo Enrico Letta 3 giorni fa, intervistato da Bianca Berlinguer. 3 giorni fa, quindi non si sapeva ancora nulla. La danno già come possibile futuro presidente del consiglio di un governo PD-PDL. No, Enrico Letta, il nome più gettonato. Perché voi giornalisti, se non vi mettete a raccontare balle, come dice Grillo, non va bene. Quindi su questo quindi condivide Grillo. Sui giornalisti diciamo che siete d'accordo. Una balla dei giornalisti, quindi nessun fondamento. Assolutamente. Eccolo là, Vincino, assolutamente una balla dei giornalisti. Vabbè. Siamo l'unica cosa che mette d'accordo tutti i politici. Tutti. Grillo, D'Alema, Berlusconi, tutti. Oh, tra l'altro, hai visto che l'hai citato, Vincino, Toto sì. Ministri che leggi, D'Alema che trovi. C'è ovunque, agli esteri, all'interno, al welfare, ai giovani, no, ai giovani. Dove lo preferiamo? Tu dove lo metteresti, D'Alema? D'Alema è proprio una pedina imprescindibile. Agli esteri ha già dato, sì, è vero. All'interno ho paura, devo dire, perché non affiderei mai forze di polizia a D'Alema. No, hai paura subito. Ha fatto il copo. Esatto, era già i servizi segreti. Primo decreto contro i giornalisti, D'Alema subito. No, se va all'interno. A Napolitano glielo, glielo firma un minuto dopo. Infatti volevo arrivare qui, perché adesso Libero dice che Napolitano vuole metterla a mordacchio ai giornalisti. Ma lui l'ha detto, non no, ma facciamolo tra un attimo. Le informazioni sul traffico, poi la segreteria telefonica, poi questa cosa. Adesso Libero, sì, di certo, Napolitano ha detto i media, i mezzi di informazione cooperino in questo momento anche di tensione, eccetera. Subito, ecco, vuol metterla a mordacchio tra poco. 24 mattino. Tutti parlano di senso di responsabilità. Ora, uno come Bersani, che ha fatto perdere due mesi al paese, si è dimesso. Ma si è dimesso da cosa? Sempre lì che rompe i coglioni. Lui dovrebbe essere via, andare via da lì, andare via proprio dalla politica. Questo significa senso di responsabilità. Quando uno se ne va, ma se cambia da una poltrona a un'altra, significa che non ha fatto niente. Questa è gente che quando sbaglia se ne deve andare a casa. Grazie, buongiorno. Dunque, gli italiani hanno bisogno di fatti e non di chiacchiere, di questi ne abbiamo piene le tasche. Il nuovo governo dovrà ridurre il numero dei parlamentari, favolosi stipendi e pensioni, loro innumerevoli privilegi, così forse andrà meglio. Ma Barack Obama quanti anni ha? Si parla di giovani, si parla di anziani che ha giustamente una grande, grandissima esperienza. Ma Barack Obama quanti anni ha? Mi sono calmato e vorrei dire che i politici che hanno proposto Amato, bisognerebbe introdurre di nuovo la pena di morte per idee blasfeme. Allora, io ho visto Berlusconi alla televisione, è andato a tutti i gazebo, sta talmente bene, ma talmente bene, che sembra che non ha avuto niente. Sapete quando si riammalerà Berlusconi? Quando gli ricominciano i processi. Allora diventa una trolta, vittima il mal di cuore, mal di qua, tutti i mali. Vabbè, a pensar male, come pensa male questa signora. Siamo con Vincino, sì. Che è condirettore del male, il male, sì. Il male su Enrico Letta, chissà cosa. È il 25 aprile, però non abbiamo parlato, eh. Ah, ecco, adesso parliamo del 25 aprile. E poi siamo con Massimo De Manzoni, che è il vice direttore di Libero. Allora, vabbè, dobbiamo parlare la prima del 25 aprile della mordacchia di Napolitano? Non lo so. Quella è scuola pravvita un poco, nel suo passato c'è tutto, perché gli è piaciuto un bel armato successo con voi. Via, no. La Pravda addirittura. Vabbè, ma cosa ha detto? Ha detto i mezzi di informazione cooperino. Come cooperano in tutti, come cooperavano in Russia, cooperavano finalmente 25 aprile, prang, l'abbiamo sprangati a tutti, no, e via. Libero, almeno, Libero, cooperate anche voi, su. Noi dovremmo fare un altro mestiere, a dire la verità. Solo che quando c'è stato Monti l'abbiamo cambiato il mestiere per un po' di tempo, ci sono stati solo tappeti rossi e elogi, e Napolitano gli è piaciuto tantissimo. Noi 20 copertine abbiamo dedicato a Monti. Quelli del male, 20, quelli 20, del male, 20. Quelli del male, no, erano terribili su Monti. Anche noi di Libero, per fortuna, ma cioè, gocce nel deserto, poi il resto dell'informazione era proprio che bell'Oden che ha, ma guarda che sobrio che è. Sì. E Napolitano gli è piaciuta tantissimo sta roba qua, ha detto ma adesso ancora Letta è sobrio anche lui. Via, si ricomincia. Insomma, come, bisogna salvare l'Italia. Che dobbiamo come dire? Ha fatto quando lui è ritornato, ha ripreso la camera, no? Quando ha fatto quella cerimonia che è uscito da Montecitorio, sì. Era come una riconsacrazione di quella piazza là, dopo gli eventi nefasti del giorno prima. Ma che è l'ultimo giuramento, dici? L'ultimo giuramento. Ma l'ultimo giuramento, con tutte le fanfare, è come quando si riconsacra una chiesa, sì. No? Che è stata, eccola, quella piazza era stata sconsacrata, sì, da quelle folle. Quel giorno lì, facinorosi, ma infatti, facinorosi, sì. Che hanno messo a rischio la Repubblica. Però no. Dai, Vincino, quel giorno lì, cioè, l'unico che non aveva torto era lui, tutti che lo applaudono, tutti che lo applaudono. Tutti, e lui gli piace sempre questo, qua, tutti che lo applaudono e lui rimette le cose a posto. Lui è felice con un po' questo, felice, un po' piange, però insomma un po' l'età, un po' piange anche. Questa è l'età un po', l'età, un po' che, così. Quando ricorda quando era giovane, pure io, no. Che dobbiamo dire del 25 aprile. Allora, a parte che Flores D'Arcais ha detto che quelli del PD non dovrebbero neanche festeggiare il 25 aprile, non dovrebbero neanche vergognarsi di andare in piazza per quello che hanno fatto. Che, come tu che fai il 25 aprile? Quello di 5 Stelle di Roma, pure lui fa così, preciso, no? Quindi che se ne frega il 25 aprile... Allora, il 24 erano 30.000 partigiani, il 26 erano 300.000. Comunque, questo è un giorno di passaggio. È l'Italia, sì. È il giorno della conversione. È il giorno della conversione. Della conversione. Tutti i partigiani dal 26. E quindi si festeggia questo. Tutti i partigiani dal 26. Ma no, dai, si festeggia anche la liberazione. Vabbè, ma cosa fai? Assolutamente. Che fai tu il 25 aprile? Metti il cappello alla bersagliere, no? Chi? Tu, io? No, io ho fatto no, il militare non l'ho fatto nei bersaglieri. L'ho fatto, ma non nei bersaglieri. Poi non mi ricordo dove, ma l'ho fatto. No, l'ho fatto a Gorizia. Un battaglione di fanteria terribile. Là, una cosa da Palermo a Gorizia mi hanno mandato. Tanto ero sovversivo da giovane. Da Palermo a Gorizia. Guarda, due giorni di viaggio. Questa era la mia cosa. No, il 25 anni fuori, là, musei, cose. Quell'altro un po'. Festa. A Palermo c'era il partigiano Pompeo Colaiani, l'unico partigiano, perché a Palermo eravamo lontani per andare in montagna là al nord, perché a Palermo ci liberarono gli americani prestissimo. Certo. Proprio velocissimi, i quattro tedeschi via, pa. E noi siamo stati con gli americani due anni prima, per cui felici, insomma. Devo dire anche gli americani, insomma, ci riportarono, oltre che la libertà, un po' di mafia, un po' di cose, vabbè, ma comunque io. De Manzoni, lo lascio parlare così, i ricordi di gioventù. Magari c'era anche prima un po' di mafietta, no? Sì, qualcosina. Proprio di importazione. Magari abbiamo esportata quella degli americani. Una cosa gli abbiamo esportata. No, invece Vincino sostiene che ce l'ha portata. Portata loro. Ce la riportarono loro. Eccolo là. Loro. E fino al 48-49 c'erano mafiosi pagati dagli americani. Si stava bene, insomma, prima pagavano il pizzo gli americani e i mafiosi per farli stare tranquilli, sicuro. E poi anche c'è Portella dell'Argenese, cosa qua, non è che gli americani non c'entrano, no, vabbè, ma questa è storia. Io voglio bene gli americani, non è che infatti. E De Manzoni, ha senso ancora il 25 aprile? Sì, dai, non facciamo queste cose. Come no, come altrimenti dove si sfogano? Oggi ci saranno tanti di quei fischi in giro, oggi fischiano tutti. È vero. Oggi fischiavano solo quelli di centrodestra, quelli che stanno antipati. Oggi fischiano anche tutti quelli del PD. Tutti fischieranno. Sì, è così. Nel frattempo, manca un minuto, volevo darvi solo questa. Pare che ci sia stata una violazione di tutte le mail private dei parlamentari del Movimento 5 Stelle. E se viene tutto pubblicato, Vincino, questa è una roba da complottone. C'è gente già disperata, dice, pare che gli hanno violato a una Giulia Sarti 5.700 mail degli ultimi 5 anni, tutta la sua vita. E che succede qua se viene pubblicata? Pensa a una mail di Casaleggio privata, se viene pubblicata. E poi nelle mail uno si arrabbia. Appunto. Pensa a uno che dice, Casaleggio si dovrebbe tagliare i capelli. Questo pezzo di mail, mamma mia. Io dicevo, si dovrebbe tagliare i capelli, basta subito, ghigliottina, questo, garrota. No, così funziona. Speriamo che non succeda niente a questo Movimento 5 Stelle. Comunque, insomma, è una violazione, pare, di hacker, di migliaia di mail di tutti i parlamentari. Stiamo a vedere. Intanto vi ringrazio, buon 25 aprile a Vincino, a Massimo De Manzoni, di vice direttore di Libero, grazie per essere stati con noi, anche visto che è un giorno di festa. E andiamo al giornale radio. 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino, l'Italia si desta. E allora siamo qui alle 7:20 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori, siamo pronti a leggere i giornali con voi, per voi, perché anche se 25 aprile è festa, magari ci state ascoltando o dal bar o dalla cucina di casa o dal letto, da sotto le coperte, viva! E allora siamo qui in diretta, vi ricordo che parleremo di politica anche oggi, con noi ci saranno Piero Stellino alle 8:15, segretario della FIOM Landini,

questo è un governo che nascerà se ci saranno le condizioni. Io ce la metterò tutta perché penso che ci sia bisogno oggi di dare una risposta ai tanti italiani che non ne possono più dei giochi e dei giochetti della politica e che vogliono risposte ai problemi. I giochi e i giochetti della politica. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, cari ascoltatori, se volete. I microfoni sono aperti, i telefoni pure. Voglio salutare Piero Stellino, editorialista del Corriere della Sera, ex direttore. Buongiorno Stellino. Buongiorno. Allora, la domanda intanto la giro a lei, la domanda semplice: ce la farà Enrico Letta? È lui la soluzione? Beh, che sia la soluzione, sì, perché l'ha tentata Napolitano saggiamente e realisticamente. Che poi ce la faccia, sta a vedere, occorre vedere come si comporteranno i partiti. Direi che finora si direbbe che non ce la farà, visto che i partiti sembrano tutti un po' impazziti. Però d'altra parte hanno promesso a Napolitano che ce la faranno e quindi probabilmente ce la faranno, perché altrimenti Napolitano, come ha detto, si rivolgerà al popolo per spiegare come si comportano male i partiti. No, anche perché sarebbe abbastanza incredibile, dopo la scena, a mio vedere, a mio modesto parere, dopo la scena di 3 giorni fa con Napolitano, che ha detto, le ha cantate in maniera sonora a tutti gli esponenti parlamentari il giorno del giuramento, e poi i partiti si possono addirittura permettere di fallire quella che potrebbe essere l'ultima possibilità, Ostellino? No, non se lo possono permettere, anche se, come dire, sono talmente frazionati e un pochino impazziti che magari quel tentativo di permetterselo lo fanno, ma io credo che invece Letta ce la farà, è una persona di buon senso, realista, quindi ce la farà. Ce la farà. Mi faccia salutare insieme a Piero Stellino Corradino Mineo, senatore del Partito Democratico. Buongiorno senatore, benvenuto. Eccoci. Buongiorno qua. A voi. Tra l'altro Corradino Mineo, che qualche giorno fa, non per, è vero, dobbiamo pensare a quello che succederà oggi, però torniamo per un attimo a qualche giorno fa. Lei, senatore, è stato uno dei pochi che, anzi l'unico credo, che all'interno del Partito Democratico aveva alzato la voce e la mano fisicamente per dire no alla riconferma di Giorgio Napolitano. Perché? Perché io ho stima per il presidente, conosco il suo schema, che è quello che ora vediamo, cioè quello delle larghe intese. Secondo me è uno schema vecchio, poteva funzionare 40 anni fa, oggi non funziona. Lei pensi che oggi è il 25 aprile, sul 25 aprile siamo divisissimi, Berlusconi non ha mai voluto ricordarlo, c'è il revisionismo in campo. Ieri alla commemorazione di Teresa Mattei sentivo quanto diverso fosse l'intervento anche di un uomo della lista civica e di quelli del PD, ma non c'è solo questo, c'è una concezione diversa dello Stato. Berlusconi ritiene che chi ha il consenso venga prima della legge, per noi la legge viene prima del consenso elettorale, e quindi questo schema non mi funziona. E ho voluto dirlo, naturalmente ora ci siamo dentro ed è inutile piangere e dimenarsi. Io penso che se il governo Letta sarà un governo decente, cioè senza provocazioni dell'ultima ora introdotte da Berlusconi proprio per umiliare, per mattare il toro PD, il PD lo debba votare. Quindi lei lo voterebbe, perché già per esempio Pippo Civati ha detto: io non voterò mai la fiducia a un governo del genere. Va bene, allora io vedremo se Pippo Civati la voterà o non la voterà. Se io penso che se Enrico Letta presentasse un governo decente, cioè senza alcune cose di cui scrive per esempio oggi Gramellini, è evidente che se mi mettono Schifani all'interno, io penso che nessun deputato senatore siciliano del PD possa mai votare Schifani all'interno della giustizia, cioè non se ne parla neppure. Ecco, quella è una delle indecenze per lei. Ma no, il problema è risolto, Schifani che fa giustizia o interni, noi non possiamo votarlo, è un'altra cosa e basta. Ma se non ci fossero provocazioni esplicite di questo tipo, lo so, per esempio il Corriere della Sera, il giornale di Ostellino, che tifa giustamente per Napolitano, mette dei ministri che sono, pagina 11, potete vederlo, che sono tutti ragionevolissimi, ma sì. L'unico indicato del PDL in questa lista è Quagliariello, non so se mi spiego, quindi i problemi ci sono davanti a Letta. Perché però... il Corriere dice che Letta non vorrebbe, secondo rumors, ex ministri dell'ultimo governo, insomma dell'ultimo governo, certo, del precedente governo Berlusconi. Ieri girava la Gelmini all'istruzione, ora sì. Pensa lei pensi lei che cosa succede con tutti quelli, ragazzi, non ragazzi, insegnanti precari che hanno fatto della contestazione della Gelmini l'elemento fondamentale, se la trovano ministro dell'istruzione. Ma tutto questo si vedrà. Questo a parte, se il PD battesse un colpo, dicesse va bene, a questo punto siamo nello schema napolitano, votate tutti voi della coalizione Italia Bene Comune la fiducia, ma apriamo un vero dibattito in cui cerchiamo di capire noi stessi come si sia arrivati a questo disastro, cioè come in una settimana la linea sia radicalmente cambiata senza dirlo, dal momento in cui Bersani diceva mai con Brunetta e ora ci siamo. Io sono più moderato, pensi un po', con Brunetta Brunetta ci potrebbe stare per me al governo. Ah, Brunetta sì. No, però è interessante, perché ha posto delle cose, ha posto delle questioni molto interessanti, Corradino Mineo. Piero Stellino, qui la questione è proprio questa, cioè siamo si è alla trattativa, è inutile, è innegabile, cioè ci sarà una trattativa, pare che Letta e Berlusconi si siano chiamati, o bisogna sempre dire Enrico Letta e Berlusconi, perché Berlusconi e Letta si sentivano spesso, ma quello è lo zio Gianni. Però insomma siamo alle trattative. Corradino Mineo ci dice no alle provocazioni. Ecco Stellino, questo è un buon viatico per un... Ma io credo che una certa sinistra, visto che siamo il 25 aprile, dovrebbe smetterla di sentirsi perennemente in montagna con lo zaino sulle spalle. La resistenza è finita, cioè i fascisti sono stati sconfitti e adesso è inutile che una certa sinistra identifichi in Berlusconi una nuova forma di fascismo o qualche cosa di questo genere e vada in montagna a fare la resistenza. Siamo in una democrazia liberale dove i governi di coalizione possono benissimo nascere, perché siamo anche una democrazia parlamentare. Cioè questa sindrome che ha la sinistra di essere perennemente in montagna a combattere l'invasore non ha nessun senso storico. Cioè nel 1948 abbiamo firmato una specie di pace, purtroppo è un armistizio perché è una costituzione un po' pasticciata, però è figlia di quella vittoria contro il nazifascismo, ne prendiamone atto e da quel momento siamo una democrazia parlamentare un po' traballante, un po' fragile, ma pur sempre una democrazia di tipo occidentale, dove possono nascere dei governi di coalizione perché non ci sono partiti che assomiglino così fortemente al fascismo o all'invasore nazifascista. Ma come, Ostellino, fino a qualche tempo fa, recentissimo, anche gli stessi, anche D'Alema ha detto sì, la grossa coalizione si può fare in Germania, ma qui abbiamo Berlusconi, qui non si può fare. E poi alla fine ci siamo arrivati perché gioco forza, o così o pomì, diceva un vecchio slogan pubblicitario. Ma guardi, io non sono un elettore di Berlusconi, quindi di Berlusconi non me ne può fregare di meno. Però dico, ci siamo trovati in una situazione in cui dopo le elezioni non riuscivamo a formare un governo, non riuscivamo nemmeno a eleggere il Presidente della Repubblica. È intervenuto Napolitano con realismo machiavelliano, perché non dimentichiamoci che gli ex comunisti e i comunisti leggevano Croce, che era un esegeta, uno studioso di Machiavelli. Se Togliatti si fosse comportato allo stesso modo e arrivato in Italia avesse preteso di fare la rivoluzione, sarebbe stato spazzato via come erano stati spazzati via i comunisti greci che volevano fare la rivoluzione e instaurare un regime di tipo sovietico. Invece Togliatti, che era un grande realista, il Partito Comunista che era fatto da gente realista, ha cominciato a camminare dentro alle istituzioni democratiche, magari cercando di conquistare qualche casamatta gramsciana, cioè la scuola, sì, l'editoria, la magistratura, che ne so, e occupando un potere reale, ma restando dentro alle istituzioni. Beh, sarebbe ora che la sinistra, una certa sinistra, imparasse dal realismo comunista togliattiano, che poi anche il realismo di Napolitano. Dice magari a conquistare qualche casamatta, ma la conquista, beh, dice. Beh, le casamatte ormai le ha conquistate, le casamatte ormai le ha conquistate, scuola, e quindi che governi, insomma. Non capisco perché si debba sempre vivere, identificare nell'avversario politico un fascista e andare in montagna con Mineo, non è piaciuto Ostellino tanto l'incipit, al dire il considerare il nemico sul 25 aprile? Va bene, ma guardi, allora, benissimo, io non considero nessuno fascista, anche perché credo che le parole debbano essere pesate, però Ostellino, che è un liberale vero, sa, dovrebbe capire bene quello che ho detto prima io, che cosa viene prima, la legge o il consenso popolare? L'eletto del popolo può considerarsi legibus solutus? Questa è la questione di Berlusconi. Questo è il tipo di attacco alla Costituzione del 48 e alla convivenza civile che Berlusconi ha fatto. Ha cambiato linea? Vuole una collaborazione? Ben venga. Naturalmente dobbiamo comporre. Ministro Brunetta, mi divengono parecchie cose, persona però che ha le sue idee, che ha lo stesso titolo di governare di Fassina del PD. Altra cosa è quando si comincia a parlare di persone che in qualche misura sono state dentro un sistema di potere che ha difeso interessi mafiosi. Questa è un'altra questione. Io vi faccio presente che c'è una persona molto garbata, molto per bene, in Parlamento, al Senato, che si chiama Dalì. Questo Dalì ha una roba, lo stanno inquisendo per concorso esterno in associazione mafiosa. Io non sono affatto, e Ostellino, se mi conosce un po', me ne darà giustizialista, riconoscerà. Non sono affatto uno di quelli che, siccome un magistrato ti ha messo nelle carte, dice basta, sei finito. Quindi a me che ci sia questa indagine mi fa relativamente poca impressione, però io conosco le cose, e allora dico che Dalì è figlio di un signore il cui campiere, e Ostellino sa che cosa significa campiere, era il padre di Matteo Messina Denaro. Allora Dalì sarà la persona più integerrima, lo dimostrerà in tribunale. È stato anche sottosegretario all'interno. Benissimo, in passato. Però io dico che candidare al Senato o mettere in un incarico di governo uno che per forza di cose ha avuto rapporti di frequentazione con il principale latitante di mafia non è opportuno. Qui non c'è l'antifascismo, capisci, il mitra, c'è un'altra cosa. Non è chiaro, è fare accordi, è fare accordi con persone, espressione anche di un partito che lei dice hanno delle... No, ma non ti possono mettere le dita negli occhi, questo è il punto. Io accetto di essere ormai nello schema napolitano, non sono d'accordo con lo schema napolitano. Ostellino, che è raffinato, sa da dove viene quella cultura. Lui ha citato Togliatti, insomma, c'era nel gruppo dirigente del PC una commistione di stalinismo e di sostanzialmente filosofia gentiliana, una certa organicismo idealista, per cui le cose devono essere così anche se non sono così. Allora, gli interlocutori non sono così. Per esempio Napolitano, solo l'ultima cosa, ha detto una mezza verità nel suo discorso alle Camere, ha detto in nessun paese d'Europa governa un partito da solo, vero? Sì. In nessun paese d'Europa governano insieme partiti così diversi. La famosa Grosse Coalition si fa in Germania, ma tutti sappiamo che la Germania ha una storia molto diversa e che i due partiti contrapposti si somigliano più di quanto non si somiglino, per esempio, in America i repubblicani e i democratici. Sì, ma certo, ma poi sono paragoni che a volte si possono fare, a volte lasciano il tempo che trovo, bisogna sempre contestualizzare dal punto di vista sia delle leggi sia della storia dei partiti. Facciamo 3 minuti e mezzo di pausa, poi ripartiamo con il senatore Corradino Mineo del Partito Democratico, con Piero Ostellino del Corriere della Sera, anche con gli umori dei nostri ascoltatori. 800 24 00 24, tra poco. 24 eccoci, mattino. Eccoci, allora, ce la farà Enrico Letta a formare un esecutivo? Ne stiamo discutendo con Piero Ostellino del Corriere della Sera e con il senatore Corradino Mineo del Partito Democratico. Ci sono anche gli ascoltatori all'800 24 00 24. Massimo da Perugia, buongiorno. Buongiorno, volevo fare 2 domande, una a Ostellino e una a Mineo. Quella a Ostellino: se il governo non viene formato, perché mi sembra che i veti che mette specialmente il partito, il PDL, sono forti, che cosa succede, che cosa fa il Presidente della Repubblica? Seconda domanda, Mineo, io l'ho sempre apprezzato come un grande direttore di Rai News 24, preferivo che lui rimanesse a fare il direttore piuttosto che il senatore, dove chiaramente non gli danno, mi sembra, alcuno spazio. Beh, grazie, arrivederci, spero di vedere Mineo a Perugia. Più che una domanda, questa è una considerazione. Comunque risponderà tra poco Ostellino. Beh, che succede se non c'è il governo? Che pensi? Beh, che succede cosa se non ci sarà il governo? L'ha già detto Napolitano, si rivolgerà al popolo italiano e dirà: vedete, i tre partiti che avete eletto nelle ultime elezioni non riescono a mettersi d'accordo, non riescono a fare un governo. Ma qui il problema è un altro. E quindi si vota. Cioè, che disastro. La metafora dell'antifascismo, della resistenza, serviva in qualche modo a spiegare un certo atteggiamento di una certa sinistra. Una quale certa sinistra è condizionata dalla vecchia formula staliniana «pas d'ennemi à gauche», nessun nemico a sinistra. Una sinistra che diventi riformista, come sta cercando e come è diventata già in gran parte il Partito Democratico, deve rassegnarsi ad avere alla propria sinistra qualcuno che è più a sinistra. Questo succede in qualsiasi parte del mondo, mentre noi abbiamo ancora una certa sinistra che pensa di essere la depositaria dell'idea pura della sinistra, che quindi non possa esserci a sinistra qualcuno più a sinistra di loro. E quindi se c'è qualcuno più a sinistra di loro, perché loro nel frattempo hanno fatto un governo di coalizione, loro perderanno dei voti. Allora a questo punto ha ragione Napolitano quando dice che ciascun partito sta pensando alla propria casetta e non sta pensando al paese. Però mi scusi Ostellino, poi vengo alla questione Mineo, però Mineo, al di là del prenderla alla lontana, se vogliamo, sui valori dell'antifascismo, la metteva in maniera più concreta, cito le sue parole, quando diceva: possiamo fare accordi con una persona per il quale il consenso vale più della legge, va al di sopra della legge. Cioè, questa è una cosa molto più concreta rispetto ai valori sui quali si può discutere, molto validi, molto importanti, dell'antifascismo. Il consenso vale più della legge, a parte il fatto che ci sarebbe da discutere su chi tra i tre poteri detiene il potere reale, perché tutta la storia del pensiero liberale, da Locke e via, ritiene che sia il legislativo che detiene il potere reale, perché deriva direttamente dalla sovranità del popolo, a parte questo. Ma comunque resta il fatto che il giudizio su il proprio prossimo è legittimo. Cioè, se io non voglio frequentare un signore che secondo me ha delle frequentazioni che non mi piacciono, non lo frequento e finisce, farò il governo con qualcun altro che non frequenta chi non mi piace. Cioè, il problema è questo, cioè non è un problema di schieramento, è un problema di singole persone. E poi queste singole persone, se sono state giudicate da un tribunale, sono state condannate, evidentemente sono persone che hanno commesso un reato. Ma se sono persone delle quali si dice che frequentavano qualcuno che non avrebbero dovuto frequentare perché qualche magistrato ha aperto un'inchiesta su di loro, beh, siamo ancora all'inizio. Sì. Cioè, questa idea antropologica in base alla quale i giudizi morali o addirittura moralistici debbano prevalere sul giudizio politico, si leggano Etica e Politica di Croce e imparino da Croce cosa vuol dire distinguere l'etica dalla politica. Insomma, Mineo, siamo tornati a qui, risponda a questa e anche all'ascoltatore di Perugia, che la vuole vedere a Perugia e la voleva vedere più come direttore di Rai News 24 che da senatore, magari. Allora, rispondere per me è semplice. Pensiamo agli Stati Uniti d'America. I partiti non aspettano il giudizio per tutelarsi. Allora, se tu hai una serie di frequentazioni evidenti, non vieni messo in lista, mentre nel partito con cui noi oggi ci accingiamo a fare il governo, questa pratica è stata corrente, no? Da Cosentino, da lì, eccetera, eccetera, eccetera. Prima questione. Seconda questione, io non ho problemi a frequentare, frequento molto volentieri il cavalier Silvio Berlusconi, lo trovo divertente, fermo restando che non penso di poter fare patti con lui, perché se conosco l'uomo, l'uomo non fa patti, compra, ti mette prima una busta in tasca e poi discute. Questo è il suo concetto del patto. Come fa a dare la fiducia a questo governo? Perché saranno le persone decenti. Non è quello, guardi, mi faccio finire, perché siccome la realtà è complessa, Berlusconi però è stato, dopo Mussolini, il più grande capo di Stato, il più importante capo di Stato che l'Italia abbia avuto. Quindi io non ho una posizione di assoluta chiusura, dico soltanto che non possiamo superare certi limiti, questo per capirci. Dopodiché la questione di fondo è che cos'è il PD. Io vorrei rispondere a Ostellino in questo modo: il problema non è di avere qualcuno alla propria sinistra. Tra l'altro il termine sinistra parlo ora del PD, è molto relativo. Io conosco delle persone che vengono considerate a sinistra del PD che sono assolutamente moderate, cioè la cultura di Stefano Rodotà, quella dei diritti, non è più la cultura dei comunisti di cui parla Ostellino, è un'altra cosa, cioè è un radicale borghese Stefano Rodotà, e non l'abbiamo potuto votare, non so perché. Dico semplicemente che se il PD non vuole morire, deve aprire un grande dibattito politico mentre discute della fiducia, perché altrimenti se si chiude nel palazzo scompare. Ma qualcosa mi pare che ci sia già del dibattito, magari più risse che dibattito. I gruppi parlamentari, posso dirle, i gruppi parlamentari finora non hanno mai discusso. E lì proprio c'è la logica staliniana, no? Faccio queste grandi assemblee queste grandi aperture elettorali, poi ti chiedo di alzare e abbassare la mano. Ma allora chi gliel'ha fatto fare a lei? Perché venendo alla domanda dell'ascoltatore di Perugia. Allora, cosa me l'ha fatto fare? Due cose rispondo all'ascoltatore di Perugia. Prima, è inutile che ci nascondiamo dietro una pietosa bugia. Io ero fuori dalla RAI già da 3 anni e mezzo. 3 direttori generali mi hanno sfiduciato per il gruppo dirigente della RAI, come per tutti i potenti di questo paese, non per molti lettori, io ero un cattivo giornalista, uno che non doveva stare lì, va bene? Ad un certo punto me ne sono andato liberando la mia redazione, che ha avuto in pochi giorni 4 volte di più di quello che io chiedevo da 3 anni e mezzo. Quindi separiamo la mia vicenda di giornalista con la mia vicenda di politico. Sì. La mia vicenda di giornalista era finita perché il gruppo dirigente della RAI non mi voleva, ecco, punto. E faceva pagare il fatto che io rimanessi lì all'intera redazione. Ho rotto questa vergogna, punto, a capo. Chiarissimo. Dopodiché, perché sono andato da Bersani? Perché modestamente, forse illudendomi, ho pensato, a fine della mia carriera, ho fatto per 35 anni solo il giornalista nel servizio pubblico, ho pensato di dare una mano, non ci riuscirò, pazienza. Vabbè. Fiorenzo da Chiavari, buongiorno. Fiorenzo. Buongiorno Milan. Senta, io sono arrabbiatissimo, furibondo, perché c'è uno delinquenti del Partito Democratico che hanno pugnalato alla schiena Marini, hanno commesso una cosa gravissima, Marini Prodi, e stamattina avrei sentito molto volentieri Claudio Burlando, il presidente della regione Liguria, che si è ribellato e ha gridato contro questa gente. Vabbè, ma lei è rimasto a Prodi, cioè, purtroppo vede come macina la politica, in due giorni è cambiato tutto. Mi faccio finire, stamattina Berlusconi se n'è andato in America, da Bush, sì. Non è andato da Obama, è andato da Bush. Beh, c'è anche Obama, sì, vabbè, è data una commemorazione del mausoleo di Bush, ma ci sarà anche Obama. Non so, ma è andato da Bush. È andato da Bush. E allora? Ci ha piantato qui nel giorno della festa della liberazione. Ha lasciato Angelino Alfano, quello sfigato di Angelino, che deve tenere la situazione per il suo partito, per lui. Ma domani torna. Vedi che tutti sono appesi a Berlusconi. Anche lei dice ci ha lasciato Berlusconi per un giorno, come faremo? No, mio Dio, ha lasciato, se n'è andato via, per dire io non ci sono in Italia il giorno della festa della liberazione. Lei dice lo fa coincidere col giorno del proprio, dice vedete io il giorno della liberazione me ne vado in America, chi se ne frega. Oggi è il giorno più importante, Gianni Letta sta discutendo, siamo al dunque. Enrico Letta, non faccia lei anche l'errore, Gianni Letta, starà discutendo anche Gianni Letta, lo zio, non lo so. Comunque no. Fiorenzo, mi faccia andare alle informazioni sul traffico, poi rientriamo. Eccoci, gli ultimi minuti di 24 mattino, vorrei sentire Sergio dalla provincia di Frosinone, buongiorno. Buongiorno a tutti, complimenti anzitutto per il programma. Sì. Velocemente, praticamente quello che voglio dire io, sentendo un po' i commenti di questa mattina, che innanzitutto magari ancora ci fossero le fazioni fascisti e comunisti, io sono un elettore del PD, quindi di sinistra, sinceramente sono legato più a un'idea progressista, visto che adesso non se ne parla più, visto che il PD ha fatto molte delle scelte particolarmente conservatrici a mio avviso, insomma. Cioè noi abbiamo un partito di sinistra che è particolarmente conservatore e poco progressista. E l'altra cosa che vorrei dire, insomma, è che fondamentalmente il PDL, se probabilmente questo per quanto riguarda le larghe intese, avesse tolto di mezzo le persone ineleggibili, vedi Berlusconi, probabilmente non staremo adesso qui a parlare di queste cose. Ma Sergio, lei capisce che voglio dire, lei vorrebbe fare le larghe intese, ma con gli uomini che vuole lei, insomma, che no, con gli uomini onesti. Io penso non sia un problema, perché visto che devono rappresentare noi, a prescindere da destra e da sinistra, io credo che vorrei. Beh, bella considerazione. Le chiedo, Sergio, lei quanti anni ha? Mi sembra io, 30, io ho 33 anni, a breve ne faccio 34. È uno di quelli che la tessera è uno di quelli che la tessera l'ha tenuta, no, o la vuole stracciare? No, io per fortuna non ce l'ho, perché sennò la bruciavo pure io questo ecco, giro, appunto. Onestamente. Va bene. E allora, Piero Stellino, Sergio dalla provincia di Frosinone, giovane elettore del PD, ma non iscritto, sennò brucierebbe la tessera, dice sì, si può fare larghe intese, ma con gli onesti, e Berlusconi non lo è. Ecco, è la sindrome la sindrome a cui faceva riferimento lei prima, di voler dare etichette morali al prossimo? Ma io ripeto che, come dire, non ho nessun rapporto con Berlusconi, non lo frequento nemmeno, non l'ho nemmeno votato. Però se dovessi fare, se fossi un partito, rappresentante di un partito, dovessi fare un governo con Berlusconi, mi preoccuperei nel momento in cui io incominciassi un negoziato con Berlusconi, se lui cercasse di mettermi in tasca una busta. Ma se fin tanto che non me la mette in tasca, il rapporto è paritetico, visto che siamo su posizioni politiche analoghe, siamo stati eletti entrambi. E quindi cominciamo a stabilire questo. In secondo luogo, io consiglierei i lettori, gli uomini politici, che parlano di moralità, dell'onestà, dell'uomo politico, di leggersi uno dei più famosi frammenti di etica e politica di Benedetto Croce, il quale diceva giustamente: ma quando io vado dal medico non mi chiedo se il medico è onesto, mi basta che mi curi. Se vado dal chirurgo non mi chiedo se il chirurgo sia onesto, basta che non mi ammazzi quando mi opererà. Da un politico che fa le leggi, dovrei chiedere all'uomo politico di essere onesto? L'onestà dell'uomo politico si vede dalla sua efficienza, cioè quello di stare dentro alla democrazia nella quale opera, ed essere efficiente dentro quella democrazia. Noi continuiamo ad avere un'idea antropologica della politica in base alla quale gli onesti e i disonesti li decidiamo noi sulla base delle nostre preferenze politiche. Ma l'onestà, l'onestà o la disonestà viene definita in base anche al rispetto delle leggi. Benissimo. Berlusconi è un signore che è il capo di un partito che è stato votato da alcune milioni di persone. Bene, facciamo i conti, parlo per il PD o parlo per una certa sinistra, facciamo i conti con quella realtà. Se poi noi abbiamo una politica diversa, non ci metteremo d'accordo con Berlusconi. Noi della sinistra non ci metteremo d'accordo con Berlusconi. Io sono stato, come dire, mi è stato offerto di fare il candidato praticamente per molti partiti che oggi rappresentano il quadro politico italiano. Ah, interessante, non ci avevo pensato. E a tutti quanti io ho risposto di no, non per ragioni di onestà, ma perché preferisco fare il mio mestiere, che è quello di giornalista. È una scelta. Cioè questa idea dell'onestà politica appiccicata addosso, o la disonestà appiccicata addosso all'uomo politico, io la trovo veramente fuori dal tempo. Cioè, ripeto, Croce aveva scritto queste cose 80 anni fa. Mineo, qua non se ne esce da questo tipo di dibattito. Mi faccia però sentire prima Salvatore da Roma, un altro ascoltatore. Salvatore, buongiorno. Buongiorno. Che bello sentire che siete tutti belli, vibranti, svegli anche il 25 aprile, cioè nel senso anche un giorno magari di festa. Impigriti ma con l'occhio attento. Impigriti ma con l'orecchio attento. Vabbè, sì, guardi, perché in effetti penso che la campagna elettorale non sia mai terminata, considerati i risultati. Tant'è che Grillo fa campagna elettorale cercando di fare accoppiare il PDL con il PD, e Berlusconi, guardando i sondaggi d'opinione, è convinto che deve andare di nuovo ad elezioni. Quindi, siccome il capo dello Stato non poteva sciogliere il Parlamento, ha fatto di tutto perché si facesse un nuovo, si nominasse un nuovo capo dello Stato, ma chiaramente farà in modo che questo governo non si faccia. Adesso però lo può sciogliere il Parlamento. Cadrebbe completamente nella ragnatela e comunque nella strategia di Berlusconi. A mio avviso, Napolitano, che ha accettato per il bene del Paese. Nel caso in cui dovesse rilevare immediatamente che questa è la condizione, probabilmente più che sciogliere il Parlamento dovrebbe dimettersi e rimettere la palla al centro ai partiti. Vabbè, insomma, qua siamo agli scenari politici, Salvatore. Mi faccia concludere con Corradino Mineo. Ho questa domanda, Mineo. Ieri il Napolitano ha fatto anche un appello alla stampa, ai giornalisti, ad essere cooperativi. E qualcuno già parla di mordacchia, dice ma come, la linea Monti, che si potrà criticare adesso l'eventuale governo Letta, oppure deve continuare questa linea di sobrietà come quando arrivò il Loden di Monti? Vogliamo metterla in positivo, allora diciamo con Ostellino che le stesse persone che criticano duramente il PD per questo cambio di linea poi gli chiedono di fare qualcosa per i cassaintegrati in deroga, per i precari, per le partite IVA, per gli imprenditori che non riescono ad avere credito. Quindi se il governo si facesse, fosse presentabile, nonostante stia in uno schema che io continuo a disapprovare, non sarebbe un fatto negativo. C'è però il problema del PD. Su questo l'ascoltatore che poneva la questione di Prodi e dei 101 anonimi bilanci tiratori ha ragione da vendere. L'intero gruppo dirigente del PD, che è anche delle cose belle, io ho creduto fermamente nel rinnovamento di Bersani e ora ci sono nuovi protagonisti che devono dimostrare quello che valgono, da Renzi a Barca, ma poi ci sono, non lo so, Civati, la Serracchiani, Marino. L'intero gruppo dirigente del PD deve provare a spiegare che cosa è successo. Ma spiegare è che qualcuno ha tradito. Ha tradito 101 persone che nel segreto, senza dirlo, hanno affondato il fondatore del partito, Romano Prodi. Io non stavo in quello schema, ma l'ho appoggiato con forza. Romano Prodi alla quarta votazione, non solo l'ho votato ma l'ho appoggiato, l'hanno affondato perché volevano a qualunque costo asserragliarsi nel palazzo col PDL e fare il governo. Questo però è un dubbio che andrà affrontato all'interno del Partito Democratico. Io qui mi devo fermare, se no sforo. Ringrazio Corradino Mineo, senatore del PD, e Piero Ostellino. Se volete il numero della segreteria telefonica 0246524492 è la nostra segreteria telefonica, mandate lì i vostri messaggi. Agreco, freddo e energia a noleggio. www.agreco.it con la K. Vi ha presentato 24 mattino.